da stamattina mo sofà del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes vanno a chiamare drogata. Da stamattina mo sofà del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes vanno a chiamare drogata. E ma, usted che la fatica io onora, ma c'ha scanzi e me che ancora, e ma spacco culo sotto tu sola, come chiamano pure il zerrone. Oh, venga a casa e facci paranoia, e dessa vita non ne tengo più voglia, voglia zassi se e si è pagata, ma chi usa c'è come sta fascia. Motore di lavoro è così che gira la ruota, essendo ripagato sotto forma di moneta, magari avessi mamma che muoversa la sua quota, per riempire il fondo cassa della mia tasca vuota. Ascolto Tony tocca, la mia mamma dice, vedi questa ancora gioca, prendi le mie robe e lascia a casa, quando sacrificio aghi ho fatto per te, ma molle stante figlio mi tenata scei. Ando la sciata che ha la responsabilità, c'è tenga la capa fresca, dimmi tu come che fa una bozza sta la giornata, un manno desperata, gli è mega a sta casa, guarda che si fraccata. Da stamattina mo so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma chiamata drogata. Da stamattina mo so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma chiamata drogata. Ma facci male la cappa, la cappa s'agnuta, s'agnuta e sechina, sechina panzina, come una sola da uina, come si rima del stile, uè bamatera, facci rima che saliera, tu che gente suera, usa stile da fè, non mi detti risa se, ma ci vuoi che fa die, a di me stare per ma radici in die, ci vuoi fè se ci tu sei, usa ci cosa c'è, che muove na da manè, uè chi ten, fè un rap, che a se un danno stress, dungeon uè da manà ci sta che ne è, no crash, when it work, ma stress, son barat pura fè sense, last means comprend. Sole disco dance, asking poi c'è dentro che un fodente. Da stamattina mo so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma chiamata drogata. Da stamattina mo so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma chiamata drogata. E non ci sta fatica, non ci sono le ternese, che se solda non c'è fazza da cattar, ma una camisa manca la fiducia. Ci poggio mite una mano e fermece che la brucia. Mamma dita fatta grande, due fuga andando, e andando sto cacasta a lavarte le mutande. Nel frattempo perdi sinze, già pensa, già ripensa, ma ne vo che da casa, mamma non c'è do cadenza. Stamattina mo, so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma ha chiamato drogata. Da stamattina mo, so fa del gatto, e che stasera mi sento scattata, e meno male che non so fumata, ustedes se mamma ha chiamato drogata. Da stamattina mo, so cazzeggiata, e che stasera mi sento scattata, e meno male che so fumata, tanto mamma che non sei drogata. Da stamattina mo, so cazzeggiata, e ustedes mi sento scattata, e meno male che so fumata, tanto mamma che non sei drogata. Pa pa.